24, i gialli della storia. In una Germania sempre più avvolta dalle bandiere con una falce incinata, lo sport è un'arma di propaganda fortissima e gli atleti un punto di riferimento assoluto. In questa realtà Albert Richter, un giovane straordinario ciclista, vive la sua carriera sportiva. Convinto antinazista, continuerà a gareggiare in tutta Europa, compiendo anche gesti clamorosi contro il regime, sicuro che la notorietà che gli viene dai suoi successi sportivi possa essere un salvacondotto. A Mix 24 raccontiamo la sua storia, la storia di un uomo che seppe dire di no ad Adolf Hitler. In questo racconto ascoltiamo le testimonianze di Renata Franz, biografa di Richter, di Lilo Nisce, nipote di Richter, e di Dore Marcus, la figlia di Berliner, l'allenatore di Richter, e lo storico Richard Mandel. Colonia 1945. Su 20.000 ebrei che abitavano qui, ne sono sopravvissuti solo 1.200. Uno di loro è Ernst Berliner, allenatore e amico di Albert Richter, il più grande ciclista tedesco tra le due guerre. Due uomini, uno ebreo e l'altro no, che stabiliscono uno straordinario rapporto di amicizia fondato sul rispetto e sulla lealtà. Ma questa amicizia, consolidatasi a dispetto della differenza di età e di religione, purtroppo nasce in uno dei periodi più bui della storia. Indiscusso campione tedesco di velocità su pista dal 1933 al 1939, Albert Richter non fa mistero della sua avversione per il regime hitleriano. Quando le camicie brune seminano il terrore per le strade, così come nelle adunate di massa, Richter rifiuta di incarnare quel modello ariano che piacerebbe ai nazisti. Mostrando apertamente la sua amicizia verso l'allenatore ebreo, sarà addirittura l'unico ciclista tedesco a ribellarsi alla loro autorità. La storia di Albert Richter è la dimostrazione che per esprimere il proprio dissenso nei confronti del regime hitleriano non servivano necessariamente atti eroici o azioni di guerra. Bastava restare fermi nelle proprie convinzioni. Albert Richter non si è mai lasciato influenzare. Contrariamente a quanto hanno fatto la maggior parte dei tedeschi a quell'epoca, lui ha detto no. Ehrenfeld, un sobborgo popolare di Colonia, 14 ottobre 1912. Albert Richter nasce al 72 di Sömmeringstrasse. Richter, che appare molto portato per lo sport, lascia la scuola a 15 anni per lavorare con il padre e uno dei suoi fratelli in una fabbrica di statuette artistiche. All'epoca il ciclismo è molto popolare. È uno sport, ma anche uno spettacolo. Ogni weekend la gente si accalca ai cancelli dei velodromi per andare a vedere i velocisti. Ogni sera dopo il lavoro Richter va ad allenarsi. Ben presto in pista dà prova di qualità straordinaria. La velocità massima da lui raggiunta stupisce tutti i presenti. Albert Richter era ancora solo un ragazzo. I genitori non erano contenti che diventasse un ciclista. Poi però, ben presto, negli allenamenti, cominciò a superare i professionisti, arrivando persino a batterli. E tutti dicevano, chi è? Da dove viene? Ben presto Albert Richter si impone anche all'attenzione del pubblico. Viene ribattezzato il cannone di Ehrenfeld. Le sue vittorie si moltiplicano. A Lipsia si classifica al primo posto nelle prove di selezione per la nazionale. Ma è soprattutto con il suo successo al Grand Prix de Paris per dilettanti, nel luglio 1932, che gli si conferma una delle speranze più sicure del ciclismo tedesco. Grazie a quella vittoria, Albert Richter viene notato da Ernst Berliner, ex campione della città di Colonia, divenuto uno stimato allenatore. Alla fine della sua carriera di sportivo, Berliner si mise a fare l'allenatore. Nel 1932, alla ricerca di nuovi talenti, scoprì Albert Richter. Credo che mio padre rivedesse in Albert se stesso. Avrebbe voluto avere di nuovo la sua età ed essere in grado di fare tutte quelle cose. Perciò ha fatto del suo meglio per aiutarlo a raggiungere la perfezione. Albert passava molto tempo a casa nostra. Gli piaceva l'atmosfera piena di calore e la cucina di mia madre. Il settembre del 1932 è decisivo per la carriera di Albert Richter. Accompagnato da Berliner, egli va a Roma per partecipare al campionato del mondo di velocità. Mentre la capitale d'Italia si prepara a festeggiare il decimo anniversario dell'avvento al potere di Benito Mussolini, Albert Richter sta per affrontare i 24 migliori dilettanti del mondo. La sua vittoria nella finale davanti all'italiano Mozzo fa di lui la rivelazione dell'anno e gli apre le porte dei circuiti professionistici. Meno di 5 mesi dopo, nella notte tra il 30 e il 31 gennaio 1933, le SA sfilano per le strade di Berlino, festeggiando una vittoria ben diversa. Il presidente Hindenburg ha appena nominato Adolf Hitler, cancelliere del Reich. Una volta passato al professionismo, Albert Richter segue i consigli di Berliner e si trasferisce a Parigi. La Francia è il paese in cui i velocisti guadagnano di più e a Parigi ci sono 4 velodromi dove si gareggia tutto l'anno. Dopo un inizio difficile, ritrova presto la strada della vittoria e trionfa nel Sancta Sanctorum del ciclismo, il Vel d'Hiv, dove ottiene il premio riservato ai velocisti stranieri. Nel giro di pochi mesi, Albert Richter diventa uno dei beniamini del pubblico parigino. Grazie al suo stile fluido e potente, è ammirato da tutti e si guadagna un nuovo soprannome, la 8 cilindri tedesca. Albert Richter ormai è nella rosa dei velocisti, sempre ai primi posti nei Gran Premi internazionali. Ma nonostante la rivalità in pista e la posta economica in gioco, c'è rispetto e stima reciproca. Il ragazzo timido della periferia di Colonia è diventato poco a poco un vero nomade dello sport, che si sposta continuamente nelle più grandi città europee. Intanto in Germania il regime ha avviato il suo programma di discriminazione razziale. Gli ebrei vengono privati di tutti i diritti, vengono allontanati dalla scuola, dal lavoro e dalla sanità. Albert Richter non ha nessuna simpatia per la nuova Germania che si sta creando davanti ai suoi occhi. Detesta l'antisemitismo e la collaborazione con Ernst Berliner, il suo allenatore, non è neanche in discussione. Lo considera un amico che lo guida nella carriera e nella vita. Era un rapporto molto bello tra un uomo pieno di esperienza e un giovane. Mio padre, non avendo avuto figli maschi, ne sentiva la mancanza. Per questo era così vicino a Richter. Per di più, Albert era un perfezionista e quindi un ottimo allievo. Albert Richter, il velocista tedesco divenuto il numero uno, trascorre nel suo paese soltanto qualche settimana l'anno. Ormai la sua vita si svolge tra Parigi, suo luogo di residenza, Colonia, dove va regolarmente a trovare la famiglia, e i circuiti internazionali, dove ritrova i suoi amici ciclisti belgi, olandesi e francesi. I nazisti hanno semplicemente inserito lo sport nella loro ideologia politica. Lo sport, per consolidare il regime, rafforzarlo e farlo progredire, è presente in tutti gli aspetti del nazismo: l'istruzione, la propaganda, la gioventù. Questo processo di inserimento inizia praticamente subito. Nel 1934 viene sciolta la Federazione Ciclistica, sostituita dalla Deutsche Radfahrerverband, la DRV, i cui dirigenti sono nominati dal regime. Ben presto gli emblemi del nazismo invadono i velodromi e sulle maglie dei ciclisti appaiono le svastiche. È in questo contesto che ad Hannover si apre il campionato di Germania. Davanti alla folla che lo circonda e lo saluta con il braccio teso, Albert Richter, vittorioso, tiene ostentatamente la mano abbassata. Bisogna davvero aver vissuto a quell'epoca per capire. Se non facevi il saluto Sieg Heil, Albert Richter si è rifiutato di farlo. E questo per i nazisti significava che eri antinazista. Per i nazisti fu come uno schiaffo. A Lipsia, nell'agosto 1934, il campionato del mondo di velocità viene preceduto da un raduno alla presenza di Adolf Hitler. Proprio in occasione di quel campionato, Richter sarà l'unico a non indossare la nuova maglia ufficiale con la croce uncinata. Richter preferisce mantenere la vecchia maglia con l'aquila imperiale. In Germania il nazismo si sta diffondendo a macchia d'olio. Con la scuola, lo sport, gli svaghi, i nazisti si rivolgono a quella parte di popolazione che è più facilmente strumentalizzabile, a cominciare dai bambini e dagli adolescenti. A loro viene fatto credere che saranno gli artefici della nuova Germania, forte, disciplinata e devota al Führer. Il vero scopo era ovviamente creare un esercito. Per quanto riguarda il ruolo dello sport, le due cose sono inscindibili. Lo sport era un aspetto importante nel progetto di riarmare la Germania e di prepararla a riacquistare il suo prestigio e a riprendere il suo posto nel mondo. Le grandi manifestazioni sportive del Terzo Reich offrono al popolo tedesco immagini ideali adatte ad alimentare il mito della superiorità della razza ariana rispetto a tutte le altre. D'altra parte, quelle manifestazioni contrastano qualsiasi velleità individualistica, riaffermando al contempo un profondo senso di appartenenza. Nel 1932 il giornale Der Angriff raccomanda: sei uno sportivo, ma anche un tedesco. Devi amare sopra ogni cosa il tuo popolo e la tua patria. Per te l'unica scelta è Adolf Hitler. Intorno ad Albert Richter ed Ernst Berliner il cerchio si stringe. La discriminazione razziale viene esercitata anche nello sport. Gli ebrei sono stati sistematicamente estromessi da club e associazioni. Nel 1934 a Berliner viene vietato di svolgere la sua attività di allenatore su tutto il territorio tedesco. Ciononostante, Berliner e Richter decidono di continuare la loro collaborazione per le gare più importanti che si svolgono all'estero. Si incontrano perciò a Bruxelles, a Zurigo e a Copenaghen, in occasione dei campionati del mondo. Tutti li vedono insieme e notano che si tengono in disparte dal resto della squadra tedesca. Prima delle Olimpiadi di Berlino, in programma per l'estate del 1936, Hitler inaugura i giochi olimpici invernali di Garmisch-Partenkirchen, nelle Alpi bavaresi. Per i nazisti è un'occasione unica per migliorare la loro immagine a livello internazionale. È una messa in scena studiata con cura, in una Germania divenuta improvvisamente tollerante e apparentemente rispettosa dei valori olimpici. E il fatto che il saluto olimpico rassomigli a quello nazista contribuisce a confondere le idee. Ai nazisti non interessava affatto, ovviamente, lo spirito olimpico, ma solo l'idea di ottenere una vittoria grazie a quelli che nel resto del mondo erano considerati valori olimpici. Non c'era nessuno spirito olimpico nella Germania nazista. L'importante era il formidabile impatto che avrebbe avuto sul regime nazista una vittoria alle Olimpiadi del 1936. Il Reich spende 20 milioni di Reichmarks, quasi 8 milioni di dollari americani, per trasformare le Olimpiadi in un grande evento. A Berlino viene costruito uno stadio enorme, una vera e propria vetrina per mettere in mostra il nazismo trionfante. In occasione della cerimonia inaugurale vengono liberati 20.000 colombi. 25 schermi sparsi per la città consentono di vedere le gare. Con i suoi 348 atleti, la squadra tedesca è la più numerosa fra quelle delle 49 nazioni rappresentate. E la sua vittoria è netta, con 89 medaglie, 33 delle quali d'oro. È interessante notare che le altre due nazioni che si sono distinte durante quelle Olimpiadi per numero di medaglie sono state l'Italia e il Giappone. Questo ha sicuramente indotto molta gente a credere che quei folli regimi totalitari fossero davvero un esempio da seguire in futuro. Albert Richter, essendo un professionista, non partecipa alle Olimpiadi di Berlino. Tony Merkens, un altro velocista tedesco che per richiesta del Reichssportführer non è passato al professionismo, vince la gara di velocità. La sua vittoria, sebbene contestata, fa di Merkens un eroe del nazionalsocialismo, di cui del resto lui condivide le idee. Per quanto riguarda Albert Richter, nonostante sia noto che egli è contrario al nazismo, la sua notorietà e i suoi straordinari successi in pista fino a questo momento lo hanno tenuto al riparo dal regime. La sua posizione privilegiata gli consente di attraversare le frontiere del Reich, ma la sua libertà spesso ha il sapore dell'esilio. D'altra parte è molto difficile, nella Germania di Hitler, essere allo stesso tempo un grande sportivo, un tedesco e un antinazista. Ma anche se sfrutta i successi dei suoi atleti a fini propagandistici, a Hitler interessa soprattutto una vittoria militare della Germania. Il Reich è di nuovo riarmato e i grandi congressi del partito nazista assomigliano sempre più a parate militari. A capo della federazione ciclistica tedesca arriva un ufficiale delle SS, Viktor Brack. Mentre le pressioni esercitate sui ciclisti si fanno sempre più strette, Albert Richter viene messo sotto sorveglianza. Seguendo il consiglio di Berliner, egli manifesta meno apertamente le sue idee in pubblico. Seppure controvoglia, qualche volta si concede perfino il saluto nazista. Per sfuggire a quell'atmosfera soffocante, ora Richter trascorre la maggior parte del suo tempo libero a Engelberg, una stazione di sport invernali delle Alpi svizzere. ma la sua posizione è sempre più difficile. Richter pensa addirittura di cambiare nazionalità. Su Berliner, intanto, con il quale Richter si scrive regolarmente, pende la minaccia della deportazione. Informato da un amico dell'arresto imminente, Berliner fa appena in tempo a sfuggire alla Gestapo e lascia precipitosamente la Germania con la moglie e la figlia. Per Richter la notizia è uno shock. Ciononostante, egli si rifiuta di cedere alle pressioni dei nazisti, che vorrebbero imporgli un allenatore ariano, e continua a collaborare apertamente con Berliner, che ha trovato rifugio ad Amsterdam. Albert Richter ha continuato a farsi allenare da Berliner anche dopo che quest'ultimo era scappato in Olanda nel 1937. E penso che ciò abbia avuto gravi conseguenze. Un fan di Colonia, che era andato ad Amsterdam in occasione del campionato del mondo del 1938, mi disse: quando l'ho visto parlare con Berliner, proprio in mezzo alla pista, c'è mancato poco che svenissi. Mi sono chiesto: ma è impazzito? Cosa fa? Lo hanno visto tutti, eppure sicuramente sapeva quanto fosse pericoloso. Il 12 marzo del 38 le truppe tedesche attraversano la frontiera con l'Austria. Sembra che niente possa fermare i tedeschi nella loro marcia trionfale. Il 10 novembre è la volta della notte dei cristalli. Gli ebrei sono accusati di complottare contro il Reich. Il regime nazista dà via ad un pogrom di vastità e violenza senza precedenti. La notte dei cristalli, nel novembre 1938, cadde la maschera. Dopo quella notte fu chiaro che il nazismo era davvero un regime perverso, come avevano sostenuto alcuni fin dal 1933. Gli sforzi compiuti alle Olimpiadi del 1936 per ostentare rispettabilità avevano soffocato le critiche. Ma dopo la notte dei cristalli fu chiaro: la guerra stava per scoppiare. All'alba del 1 settembre 1939, le armate del Terzo Reich invadono la Polonia. Il giornale ufficiale della Federazione Ciclistica ricorda in prima pagina i doveri militari degli sportivi tedeschi. I nostri atleti devono far vedere che cosa sono diventati grazie allo sport, sviluppato dal Führer come un'autentica preparazione alla lotta. Ora devono donare alla patria il coraggio e la forza che hanno acquistato con lo sport. Il primo settembre 1939 ha sicuramente segnato una svolta decisiva per Albert Richter. Per lui deve essere stata una catastrofe. Ripeteva: non posso fare il soldato, non posso sparare ai francesi, sono miei amici. Si dice che all'inizio della guerra gli uomini della Gestapo siano andati più volte a casa dei genitori di Richter per convincerlo a trasformarsi in una loro spia all'estero. Ma lui rispose senza mezzi termini: non intendo farlo. A quel punto però capisce che deve lasciare la Germania. Dopo un'ultima vittoria al Grand Prix di Berlino, Albert Richter decide di partire per la Svizzera. Porta con sé soltanto la bicicletta, un paio di sci e una valigetta, dentro un'ingente somma di denaro che egli ha promesso di far pervenire ad un amico ebreo che ha trovato rifugio all'estero. Il suo treno, però, viene bloccato alla frontiera. I doganieri, evidentemente ben informati, perquisiscono il bagaglio e trovano il denaro. Albert Richter viene fatto scendere e messo in carcere. Tre giorni dopo, il 3 gennaio 1940, la Gestapo dà la notizia della sua morte. La versione ufficiale: suicidio per impiccagione. Per troncare qualsiasi discussione, la bara viene chiusa con il divieto tassativo di aprirla. La morte di Albert Richter lascia molti interrogativi senza risposta. Come si fa a credere che un uomo con la sua forza e il suo carattere si sia suicidato? E poi i doganieri come facevano a sapere che c'era quel denaro? Chi li aveva avvertiti? E perché? Io credo che fossero molto bene informati di quel viaggio. Dobbiamo tenerlo sotto controllo, sta tramando qualcosa. Insomma, io credo che Richter sia stato tradito. Quando i nazisti sanno che Albert Richter è in procinto di lasciare la Germania, non esitano ad assassinarlo a sangue freddo. Ma per giustificare il loro crimine, ora occorre infangarne la memoria. L'uomo che è stato l'idolo del ciclismo tedesco deve essere condannato al disonore e all'oblio. In un comunicato particolarmente infamante ed infame, la Federazione Ciclistica ricorda la gravità della sua colpa. Facendo traffico di valuta per un ebreo, Albert Richter ha commesso un reato gravissimo e il suicidio era per lui l'unico gesto possibile. Il comunicato termina così. Il suo nome è cancellato per sempre dai nostri ranghi e dalla nostra memoria. All'estero nessuno si lascia ingannare dalle varie versioni che circolano sulle circostanze della morte di Richter. Tutti, sia i giornalisti sia i ciclisti, sospettano che si sia trattato di un delitto. I nazisti hanno eliminato la persona che non sono riusciti a piegare. La stampa francese ricorda le prese di posizione di Richter contro il regime hitleriano e la sua amicizia per Ernst Berliner, il suo allenatore ebreo. Nel numero 1 di Auto del 7 gennaio 1940, il giornalista Jean Leliu scrive: «Il nostro ultimo incontro con Albert Richter è avvenuto alla fine di agosto, alla vigilia della guerra. È stato un momento commovente, in cui faccia a faccia ci ha aperto il cuore. Presto, molto presto, ci ha detto, ci ritroveremo. Allora saremo liberi, ma nei momenti più duri che ci aspettano, pensate sempre che laggiù potete contare su un amico». Per Richter era molto rischioso intrattenere rapporti con mio padre. Lui lo sapeva, ma questo non l'ha fermato. Questa è la dimostrazione che era un uomo straordinario. Era convinto di fare la cosa giusta, ci voleva aiutare, ma non poteva fare molto, perché le luci dei riflettori erano sempre puntate su di lui. E tutti sapevano chi era. Ernst Berliner non si riprenderà mai più dal dolore per la morte di Albert Richter. Dopo la guerra, ormai espatriato negli Stati Uniti, torna spesso a Colonia per convincere le autorità ad aprire un'inchiesta. Convinto che ci sia stato un tradimento, vuole far trionfare la verità e riabilitare la memoria dell'amico scomparso. Ma le sue visite spesso suscitano imbarazzo e rabbia negli ex ciclisti e tutti i suoi tentativi rimangono senza esito. Mio padre ha cercato di scoprire chi lavorava per i nazisti a quell'epoca. Ha indagato anche su altri ciclisti che avrebbero potuto aiutare i nazisti per scoprire la verità. Il ritorno di mio padre ha suscitato stupore. Nessuno si aspettava che sarebbe tornato vivo. Ha continuato le sue indagini per molto tempo. Ma tutto congiurava contro di lui. Hanno collaborato ai Gialli della Storia Francesco Anzalone, Daniela Ghezzi, Antonella Migliaccio, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Le puntate si possono riascoltare in podcast sulle pagine di Mix24 sul sito www.radio24.it.